Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio stasera, grande attesa, sì, grande attesa perché all'Arena di Verona c'è il grande classico, la nostra opera nazionale, la potremmo definire così, l'Aida di Giuseppe Verdi. Buongiorno, buon pomeriggio a Umberto Fani, direttore artistico della Rassegna, come sta andando? Molto bene, buongiorno ai radioascoltatori, molto bene, devo dire, un'Aida che stasera si preannuncia con il tutto esaurito, con la direzione del maestro Oren, un'Aida che è nella edizione straordinaria del maestro Franco Zeffirelli, a cui è stato dedicato, come tutti sanno, l'intero festival areniano di quest'anno. Quindi andrete avanti con Madama Butterfly, con Carmen, con Il Trovatore, insomma tantissimi appuntamenti. Fino alla fine di agosto, quindi chi capita a Verona o ci capita o ci deve andare per forza? Ci deve andare per forza, no, sto scherzando, comunque sicuramente l'arena è un miracolo straordinario architettonico e per coloro che non la conoscono veramente invito di andare a vedere e con l'occasione di andarsi a sentire delle grandi opere in questo spazio unico al mondo, il più grande anfiteatro all'aperto dove si fanno le opere al mondo, quindi credo che sia una bella opportunità e poter visitare anche una città molto interessante come Verona. Marco Berti fa Radames, ruolo sempre difficile? Beh sì, insomma, è sempre un grande impegno in un grandissimo ambiente, una grandissima atmosfera. Comunque buongiorno a tutti, buongiorno anche al maestro. Che emozione dà cantare nell'arena? Ne abbiamo parlato varie volte anche l'anno scorso. È un momento particolare per tutti quanti tenori, per tutti quanti cantanti lirici? Ma penso che sia un momento particolare per tutti quanti. È il palcoscenico più grande del mondo, è un grande mastello con 15.000 persone, quindi ti si offre una vetrina incredibile. Grande emozione, è una magica estate, diventa tutto, tutto esasperato ai massimi livelli, sia l'emozione, l'adrenalina che gira, la gioia alla fine di poter dare il meglio di se stessi in un grandissimo ambiente, insomma, veramente è una grande. Ogni volta è come se fosse la prima volta, sempre una banalità, sembra una frase fatta, però è così perché devi tutto l'anno canti in teatro e quindi sai i tuoi punti di ritorno alla voce, sai come calibrare, sai come da, in arena tutto viene sfasato, tutto viene distrutto, questi punti di riferimento vengono meno, insomma. Vengono meno, e quest'opera in particolare, il ruolo di Radames è il ruolo che tutti i tenori vorrebbero avere, oppure magari ci dice no, a me piace più un'altra opera, piace più un altro ruolo. Ci sconvolge, ci dice il ruolo che le piace veramente di più, senza piaggeria. No, stasera c'era Radames e quindi il ruolo che mi piace di più è Radames. Questo è come lo scrittore, il libro migliore, quello che ha appena scritto. No? Sì, difatti, come si fa? Ma cosa che magari le piace, un personaggio che le piace interpretare particolarmente, a parte Radames. Beh, a parte Radames, mi piace molto il Manrico. Poi è un po' come lo scrittore, poi gli ultimi, adesso sto un paio d'anni che sto preparando l'Otello che debutterò il mese prossimo e quindi ho l'Otello dentro nella testa e quindi amo particolarmente l'Otello, ecco. Allora, ricordiamo che stasera Marco Berti sarà Radames, però ci ha confessato anche i ruoli che ama di più. Umberto Fanni, ritorniamo a lei, direttore artistico della Rassegna, ricordiamo l'Arena di Verona, molte le opere, i grandi classici, c'è però un po' chi dice dice cantare all'arena oppure suonare all'arena è un po' difficile perché non c'è un'acustica perfetta, eccetera. Che cosa risponde a queste critiche? Ma guardi, devo dire che finora tutto quello che si è sentito in arena si sente straordinariamente bene, per cui poi ci sono cantanti che hanno delle proiezioni vocali importanti come il nostro Marco Berti, per cui non c'è assolutamente difficoltà ad ascoltare, quindi la cosa importante è la concentrazione e il silenzio che si crea poi in quel momento magico dell'inizio dell'opera, e quindi insomma questo poi è come un, diciamo, un fiume che poi scorre naturalmente. Ricordo con l'emozione della musica. Esattamente, sì, si creano veramente dei momenti magici, alcune serate veramente straordinarie. Ricordo una recente Turandot che tra l'altro il nostro Marco Berti sta interpretando oltre alla sarà Calas nelle recite del 16, 24 e 30 luglio prossimi, e sono state serate meravigliose con le stelle e una luna che sale dall'arena, che veramente lascia quasi senza fiato, quindi si crea veramente un'atmosfera magica, e quindi alla fine chi ascolta viene avvolto da questa musica straordinaria, da queste voci straordinarie. E noi ricordiamo, l'Arena di Verona questa sera ospita l'Aida, ma noi seguiremo la rassegna per tutta l'estate, ore 21:15, come ci ha detto il direttore artistico Umberto Fanni, che ringraziamo, tutto esaurito nel ruolo di Radames Marco Berti, e un'emozione che si rinnova ogni estate. Grazie. Grazie a voi. Wieder hinaus ins strahlende Licht, wieder hinaus mit frohem Gesicht. Grell wie ein Clown das weiße Antlitz bemalt. Zeig deine Kunst, denn du wirst ja bezahlt. Bist du ein Gockler, ein Spielball des Glücks. Zeig deine Künste und zeig deine Tricks. Tust du es recht, der Menge. E dall'opera, dall'Aida, noi passiamo all'operetta, che però è sempre un piacere sentire. Qui abbiamo addirittura un pezzo in tedesco, Zwei Märchenhaugen, dalla principessa Chardas, perché sì, proprio la principessa Chardas di Emmerich Kallmann è in scena al Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, e nel ruolo del conte Boni Cancianu un nostro vecchio amico, un vecchio amico di Summertime di Cartellone, Gennaro Cannavacciuolo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Gennaro, questa operetta è la più rappresentata dopo La Vedova Allegra? Sì, la più rappresentata dopo La Vedova Allegra, soprattutto in Germania, in Austria e in Ungheria naturalmente, che è la sua patria. È un'operetta veramente straordinaria, ha delle musiche meravigliose. Peccato che non è molto conosciuta in Italia, ma io spero che con il passare del tempo si rappresenti sempre di più, perché veramente vale la pena, senza nulla togliere alla grande, straordinaria Vedova Allegra, ma credo che veramente meriti La principessa della Charles. Allora, noi sappiamo che è un'operetta scritta da Kallmann all'inizio della Grande Guerra, e praticamente, come tutte le operette, raccoglie un po' la voglia di leggerezza della fine della Belle Époque, no? Grande valzer viennese, poi grandi aree molto molto frivole, sembrano quasi, però ben composte, perché la frivolezza è anche più difficile del dramma. Sì, no, ci sono delle aree frivole, naturalmente quelle le canto io perché è il mio compito tradurre la frivolezza in teatro e soprattutto dell'operetta, però devo dire che ci sono il finale del primo e del secondo atto sono veramente di una drammaticità sconvolgente, è una musica che, a parte la frivolezza, ha quella amarezza, quella oscurità un po' che contraddistingue il popolo ungherese. È veramente molto emozionante questo, piacerebbe tanto farvelo ascoltare, spero. Senti Gennaro, qual è la trama? No, la trama è come tutte le operette del mondo, è come si fa a spiegare la trama di un'operetta in due secondi? Il tuo ruolo, allora, il tuo ruolo, va. Dunque, la trama intanto è ricca di colpi di scena, di principesse, di paillette, di piume, di arciduca. Io naturalmente sono un vero conte, un grande vero di questo cabaret dell'Orfeum di Budapest, dove la principessa della Sardes, cioè la Sardes è una danza ungherese famosissima, la principessa punta questa soubrette di cui tutti sono innamorati, anche Boni Canciano è innamorato, ma alla fine non sposerà la principessa, che la principessa naturalmente sposerà il principe, il divino Carlo di Lippert-Weilerschaft. I nomi sono difficili da ricordare, no, in questo momento. Cioè, soprattutto per un napoletano. Io sposerò la contessina Stasi di Eggenberg alla fine. Vabbè, ti sposi però, ecco. Sì, io mi sposo sempre. Anche nella vita. 10 mesi fa mi sono sposato veramente e in ogni operetta mi sposo, sì, grazie a Dio. Allora, ricordiamo sì. La principessa della Sardes con Gennaro Cannavacciuolo e anche altri... Guarda, sono la principessa e una... Silvia Varesco è il nome d'arte. Lei è una cantante lettone bravissima. Il cantante Daniel, non mi ricordo. Vadaz e Alisa Rinoviegna. Vabbè, ci perdoneranno perché i nomi sono difficili. È un po' più facile quello di Gennaro Cannavacciuolo che abbiamo sentito. Ricordiamo quindi questa operetta, La principessa della Sardes, a Trieste, Teatro Libico Giuseppe Verdi, ore 20:30 questa sera, poi repliche il 10, il 15, il 18, il 20 e il 22 luglio. Con la regia di Ciaba Tasnabi e la direzione d'orchestra di un maestro bravissimo, Tamás Pál. Grazie e in bocca al lupo, soprattutto grazie e in bocca al lupo con tutti questi nomi. Ciao Gennaro. Un bacione, grazie a voi, arrivederci. Summer Time. Adesso andiamo al Globe Theatre di Roma, sì, quello di Villa Borghese, dove è in scena da stasera una grandissima produzione, I due gentiluomini di Verona, di William Shakespeare, chiaramente, una traduzione e un adattamento di Vincenzo Cerami, con musiche di Nicola Piovani. Uno dei due gentiluomini, a proposito Valentino, è Giampiero Ingrassia. Buongiorno Giampiero, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio, come stai? Bene, tu come tutto stai nel ruolo di Valentino? Siamo frementi perché questa sera si debutta finalmente dopo un mese di prove, siamo pronti e insomma siamo carichi e spero che insomma il pubblico gradisca, anche perché I due gentiluomini di Verona è una delle primissime, se non la prima commedia scritta da Shakespeare, quindi è fra le meno conosciute, ma nonostante questo è una bellissima storia di amicizia, fondamentalmente di amore, perché l'amore rientra sempre nelle commedie di Shakespeare, insomma è tutta da vedere secondo me. Ma Valentino che ruolo ha? Dunque Valentino dei due gentiluomini ricordiamo Valentino e Proteo, naturalmente è Gianluca Guidi, il mio caro amico Gianluca fa Proteo, e Valentino a differenza di Proteo è uno supa femmine, diciamo. È uno che nella sua gioventù si è dato a destra e a sinistra e non ha focalizzato la sua esistenza come fa Proteo, invece che non so, nello studio, Proteo è uno innamorato della sua Giulia. Succede che Valentino parte, va a Milano alla corte di un duca e mai dire mai, si innamora perdutamente di una ragazza, quindi il tutto viene ribaltato e succederanno delle cose. E come si chiama questa ragazza? Il ruolo è Silvia, l'attrice è Loredana Piedimonte. Quindi tu a un certo punto dici: quale luce se Silvia i miei occhi non vedono? Bravissima, esattamente. Quale esattamente. gioia se Silvia non è con me? Esattamente, allora, c'è a memoria, no? Capito? No, ce l'ho scritta, anzi se ce la reciti tu a noi ci fa più piacere. Quello è un momento molto bello perché lui viene esiliato, viene cacciato via da Milano dal duca perché si scoprono delle cose e lui ha questo lamento terribile, una cosa molto bella, poi sotto c'è questo violino, c'è una violinista in scena e c'è proprio questo violino che entra tipo come una saetta nel cervello di Valentino, insomma è molto bello. Quindi il tuo ruolo ci può dire che anche un filibustiere come Valentino esatto, può diventare... Anche uno scarezzacollo prima o poi si innamora e cade nella trama. trappola tra le braccia di amore. Ringraziamo Gian Piero Ingrassia, ricordiamo Globe Theater di Villa Borghese, ma come sappiamo c'è Proteo che è Gianluca Guidi, però purtroppo Gianluca è un po' impegnato con le prove, sono tutti quanti molto emozionati per questa prima dei Due Gentiluomini di Verona al Globe, ma noi abbiamo rintracciato un altro protagonista, un nostro amico tra le altre cose, Claudio Pallottini, che interpreta Turio. Chi è Turio, Claudio? Turio è il pretendente sciocco, cioè quello che vorrebbe sposare grazie ai suoi denari la bellissima Silvia e invece viene gabbato perché è talmente stupido, talmente sciocco, talmente supponente, per cui viene gioco forza a metterlo in mezzo e fargli perdere l'amore di Silvia. Quindi diciamo è il concorrente di Valentino. Sì, in realtà è il concorrente di Valentino, che poi diventa però il concorrente di Proteo, che Proteo si finge amico di Turio, gli dice io te la conquisto per te, gli canto la serenata, sarò io, però in realtà è lui a fare tutto per se stesso. Cioè, mentre Cyrano faceva tutto per Cristiano, realmente lui è un Cyrano che fa tutto per sé. Senti Claudio, questa versione di Vincenzo Cerami con le musiche di Nicola Piovani, come si adattano a una commedia shakespeariana? Ma guarda, Piovani sta facendo un lavoro quotidiano di seguire la lettura delle scene, quindi sta adattando e sta scrivendo musica appositamente per sottolineare i momenti più coinvolgenti e quindi le musiche stanno nascendo proprio per questo spettacolo, per questo spazio e per questo tipo di situazioni. E sono molto, naturalmente non devo dirlo io, però sono bellissime e più che altro sono giustissime. Allora, Claudio Pallottini nel ruolo di Turio, lo ricordiamo, i Due Gentiluomini di Verona, abbiamo sentito prima Valentino, Gian Piero Ingrassia e Proteo, Gianluca Guidi, impegnatissimo nelle prove, stasera al Globe Theater di Villa Borghese, ore 21:15 la prima fino al 18 luglio, regia di Francesco Sala, traduzione di Vincenzo Cerami e musiche di Nicola Piovani. Più di così, chi è a Roma, chi si trova a Roma per vacanza, vi deve venire a vedere. Ciao Claudio! Ciao, ciao, ciao. E adesso, prima di chiudere, sempre a Roma, al Fontanone Estate, iniziata la stagione, sì, proprio al Gian Nicolo, e questa sera c'è Tiergartenstrasse, una produzione del Teatro Vittoria, e sarà anche a Genova alle 21:15 al Teatro all'Aperto il 13 luglio. E proprio il 13 luglio ci rioccuperemo di Tiergartenstrasse, che ricordiamo questa sera è al Fontanone Estate. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it oppure potete ascoltare la nostra puntata sul sito www.radio24.it e curiosare tra gli appuntamenti che vi segnaliamo. Una buona giornata e una buona serata a tutti da Elisabetta Fiorito.